Economia in pagina. Buongiorno, bentornati alla nostra rubrica dedicata ai libri di economia. Oggi parliamo con il professor Pierangelo da Crema. Buongiorno, professor da Crema. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Pierangelo da Crema è docente di economia degli intermediari finanziari all'Università delle Calabrie e autore di un libro che abbiamo presentato peraltro alcuni mesi fa, La dittatura del PIL, in cui si dissacrava un po' un elemento centrale del dibattito economico e delle scelte di politica economica, come l'andamento del prodotto interno lordo. Ora ha scritto un libro, La crisi della fiducia. Nella copertina la S di crisi ha la forma del dollaro, le colpe del rating nel crollo della finanza globale. Quindi è un libro dedicato ad analizzare quanto è successo negli ultimi mesi e quanto ha provocato appunto la crisi finanziaria, di cui ora stiamo vedendo le conseguenze anche sull'economia reale, anche con questa frenata dell'economia che è già diventata in molti paesi una recessione. Allora andiamo alle radici di questa crisi: è una crisi della fiducia. Come mai, professor da Crema? Guardi, è una crisi della fiducia perché i rapporti finanziari vivono di fiducia. La fiducia è la filigrana sottostante a qualsiasi rapporto di debito-credito, a qualsiasi rapporto fra una banca e il suo depositante, e anche il denaro incorpora la fiducia. Il tessuto più fine, più profondo del denaro è fatto dalla fiducia. Quando la fiducia si logora, questi rapporti si spezzano, vanno in frantumi e ne consegue purtroppo quello che è accaduto a livello internazionale. Quindi si è avuto un eccesso di fiducia, si è parlato molto dei mutui subprime, questi mutui concessi a persone che non davano le necessarie garanzie poi di poter restituire nel tempo la somma per cui erano stati finanziati. Quindi anche qui c'è stato un eccesso di fiducia da parte degli istituti di credito, un eccesso di fiducia che ha fatto fare un'azione positiva come finanziare l'acquisto di una casa da parte di categorie meno abbienti, con dei mezzi peraltro negativi che poi hanno provocato una crisi a catena nella finanza internazionale. Quindi la fiducia deve essere nei due sensi, sia la fiducia nelle istituzioni finanziarie, sia la fiducia che le istituzioni finanziarie pongono verso i loro clienti o potenziali clienti. Certo, e ci sono stati errori nel concedere questa fiducia, e non solo e non tanto c'è stata una fiducia sbagliata nei confronti dei mutuatari, che appunto, come dice la denominazione stessa, erano subprime, cioè si trattava di clientela non primaria. Diciamo che c'è stata piuttosto una fiducia eccessiva nei prodotti finanziari, che sono stati costruiti spesso in modo piuttosto artificioso e avendo come base questi mutui. Si è immaginato di poter costruire dei prodotti finanziari degni di fiducia, in realtà sono stati costruiti, ripeto, in modo diciamo troppo ingegneristico, in modo troppo arzigogolato, prodotti finanziari che in realtà erano delle mine vaganti, scatole nere, prodotti indecifrabili, prodotti opachi, poco trasparenti. Peraltro prodotti finanziari che avevano un'etichetta di documentazione di origine controllata, potremmo dire così, avevano una pagella, quello che viene chiamato appunto il rating, che era positiva. Si parla molto del rating in questo libro. Che cos'è il rating? Il rating, come diceva lei giustamente, è una pagella, un voto che viene dato a un prodotto finanziario e che dovrebbe raccontarci qualcosa di preciso a proposito della solvibilità, a proposito appunto del grado di fiducia accordabile a questo prodotto finanziario. Purtroppo sono stati commessi errori colossali da parte delle società di rating, che hanno distribuito un po' troppo alla leggera le loro triple, le loro doppie e le loro A, perché appunto adesso non so fino a quanto il grande pubblico conosca il sistema della valutazione delle società di rating, ma i voti vengono attribuiti attraverso delle lettere. Tripla A indica eccellenza, una tripla C indica, diciamo, un titolo spazzatura, mediocrità infatti. E il rating purtroppo ha fatto da catalizzatore di questa crisi, perché questi prodotti sono stati resi affidabili mediante queste pagelle, a volte accordate in modo troppo superficiale. Ecco, la tripla A di solito è concessa appunto ad emissioni di emittenti sicuri o super sicuri, come possono essere gli stati, ma non tutti, e mentre appunto le imprese, le società finanziarie di solito hanno dei rating inferiori. Spesso si sono concessi dei rating, appunto la tripla A, anche a società solo per il nome della società stessa, che non per il tipo di prodotto che vendevano. Quindi si è data più credibilità alla fama che non al contenuto, e questa è la logica? Esattamente, questo è accaduto per esempio con i titoli diciamo emessi o direttamente o sotto l'egida di grandi banche di investimento come la Lehman Brothers. Le società di rating medesime hanno pensato che una banca non potesse fallire, o comunque fosse molto improbabile che fallisse, e questo è stato un errore colossale. Errori di cui c'erano state le avvisaglie, per la verità, già dal 2007 con il caso Northern Rock. Poi il modo superficiale in cui è stato stigmatizzato l'errore di Société Générale, che ha perso quasi 5 miliardi di euro con le sue scommesse, insomma, sui prodotti finanziari derivati. Ecco, il pensare che grandi istituzioni finanziarie potessero non avere problemi o comunque non potessero fallire è stato uno di questi errori, e le società di rating quindi hanno abusato del concetto di fiducia, o comunque lo hanno travisato. C'è anche stato un fatto che questa ingegneria finanziaria ha fatto sì che quelli che erano dei debiti poi potessero diventare quasi un'espressione di ricchezza, di patrimonio. Cioè questa, per esempio Lehman Brothers, che è fallita, ma anche altre istituzioni finanziarie hanno potuto creare nuovi strumenti finanziari sulla base di un patrimonio che era rappresentativo più di un debito, quindi di una cosa in un certo senso negativa che non di un fatto positivo. Quindi c'è stato quasi uno stravolgimento delle tradizionali regole di contabilità. Certo, si è abusato della leva finanziaria, e come dicevo prima, il rating ha fatto da catalizzatore, ha creato massa critica. Questi titoli sopravvalutati hanno letteralmente ingolfato Wall Street, ma Wall Street, d'altra parte, questo mercato, insomma il più grande mercato finanziario del mondo, era avido di prodotti vendibili, e tutti hanno chiuso un occhio, a volte anche due. L'errore centrale è stato rappresentato dall'eliminazione di qualsiasi forma di separatezza tra controllore e controllato. Le società di rating, che avrebbero dovuto controllare la qualità dei prodotti finanziari, si sono messe a collaborare intensamente con gli emittenti di questi prodotti, ed è venuta a cadere qualsiasi capacità e possibilità di controllo sul piano sostanziale. Adesso, non dico a bocce ferme perché la crisi è ancora in atto, però guardando più in avanti che alle spalle, possiamo dire di aver superato la fase più forte della crisi, oppure nei forzieri delle banche ci sono ancora delle bombe e orologerie innestate? Guardi, io per quanto riguarda il futuro sono relativamente ottimista, nel senso che sul piano strettamente finanziario io direi che la crisi, che come diceva lei, insomma, speriamo di esserci lasciati alle spalle, è stata forse più grave di quella del 29, ma circa le sue conseguenze negative, quelle a cui stiamo assistendo e quelle a cui purtroppo assisteremo sul piano della cosiddetta economia reale, sul piano della economia della produzione, della nostra vita quotidiana, c'è motivo di pensare che le conseguenze siano più tenue, per due motivi. Innanzitutto nel 29 si è sbagliato tutto, non si aveva quel bagaglio di esperienza di cui oggi si dispone in termini proprio di capacità di reazione sul piano dei provvedimenti di politica monetaria ed economica. Il secondo motivo per cui potremmo essere più ottimisti è legato al fatto che è stata spazzata via una finanza oggi a contatto meno diretto con il mondo della produzione, mentre nel 29 finanza e produzione erano in due stanze molto contigue, il crollo dell'una non avrebbe potuto che significare il crollo dell'altra. All'epoca attuale le cose stanno in modo un po' diverso. E quindi possiamo riscoprire un'economia reale, sull'economia reale cominciare a ricostruire un po' anche quella fiducia che deve essere, come dicevamo all'inizio, alla base dei rapporti economici, alla base dei rapporti sociali. Io ringrazio il professor Pierangelo da Crema, ricordo che titolare della cattedra di economia degli intermediari finanziari dell'Università della Calabria, autore del libro La crisi della fiducia, l'editore è Etas Libri, le pagine sono 134, si legge come un romanzo, costa 14 euro, quindi neanche troppo, è un investimento che si può fare per capire che cosa è avvenuto e anche per sperare, come abbiamo detto in conclusione della nostra conversazione, che il futuro possa tener conto appunto delle difficoltà del passato, ma cominciare a costruire sui rapporti reali, sui rapporti costruttivi e soprattutto sulla fiducia tra le persone. Grazie professor da Crema, grazie a quanti ci hanno seguito.